10 centesimi che è quello a cui voi la vendete in meno, 2-3 centesimi che è quello che guadagna il distributore, fanno 13 centesimi circa. Però vorrei capire, secondo lei, il motivo per cui negli altri punti vendita, negli altri distributori si paga di più è perché sono piccoli, quindi diciamo è tra virgolette colpa del distributore, o è perché voi riuscite a spuntare dei prezzi con le compagnie petrolifere che però poi le compagnie petrolifere non praticano a noi clienti finali? Guardi, ci sono i prezzi, diciamo, sono i prezzi di mercato. Noi ovviamente facciamo più contratti e cerchiamo di comprare utilizzando i fornitori che in quel momento ci fanno le migliori condizioni di prezzo. Io penso che uno dei motivi per cui nella rete più tradizionale i prezzi sono più alti è perché abbiamo una rete molto polverizzata, con impianti piccoli che erogano volumi molto bassi e quindi non sviluppando volumi adeguati non hanno oggettivamente un'incidenza dei costi molto più alta. Ma allora non è colpa delle compagnie petrolifere? Ma guardi, io penso che qui non ci sia un problema di colpa. Io credo che Insomma, non è la causa, perché il suo direttore generale diceva quanto guadagnano le nostre compagnie petrolifere, boom di utili. Penso che noi dobbiamo lavorare per un mercato più aperto dove ci sia più concorrenza. Quindi credo che noi dobbiamo puntare a due cose: favorire l'ammodernamento della rete, sostenere anche le iniziative di quelle organizzazioni dei gestori degli impianti come FAIB, Confesercenti e FEGICA CISL, che hanno presentato un progetto. Ho capito benissimo, però serve a superare l'esclusiva nelle forniture, perché questo credo che sia il problema, non quanto guadagna. Mi dica solo una battuta: secondo lei i margini maggiori, cioè la differenza maggiore, la fanno le compagnie petrolifere o i distributori di carburante? Voglio solo capire questo. Secondo lei c'è una rete di distributori grossisti tra le compagnie carburanti, è la filiera che è lunga. C'è una filiera dove ci sono le compagnie, ci sono i gestori dei depositi, poi ci sono i distributori. Ho capito. E l'altro aspetto è che la maggior parte dei gestori degli impianti hanno contratti di esclusiva, per cui devono comprare il 100% del prodotto dalla compagnia e quindi non hanno possibilità di negoziare le migliori condizioni comprando da quello che fa il prezzo più basso, se sono vincolati da un contratto di esclusiva. Per quello dicevo che è importante quello che hanno chiesto due importanti sindacati dei gestori degli impianti come FAIB e FEGICA, che hanno chiesto di eliminare i contratti di esclusiva, liberalizzare gli accessi. Liberalizzare gli accessi.